Allora, 10 e 25 minuti primi, risolti alcuni consueti problemi tecnici che speriamo non si ripropongano. Ritorniamo in voce in diretta qui a Radio Onda Rossa. Come annunciato, ripartiamo ricominciando a raccontare quello che è accaduto ieri nella zona di Casalbertone, lo sgombero di uno stabile che era stato occupato nel corso del primo tsunami tour, ormai un anno e passa fa, un'occupazione dove erano presenti una cinquantina di Rom che vivevano lì appunto da un po' più di un anno. Ieri lo sgombero, fra l'altro in una giornata non come tutte le altre, e dopo lo sgombero c'è stata un'iniziativa di fronte un presidio, di fronte all'assessorato ai servizi sociali del Comune di Roma, un incontro, insomma, di tutto questo però è meglio farcelo raccontare da Gianluca dell'associazione Popica o Popizza, che dir si voglia, che ieri era presente. Intanto buongiorno Gianluca, ci senti bene? Buongiorno a tutti e a tutte, sì, benissimo. Bene, allora intanto cominciamo raccontando brevemente come è nata questa occupazione, come era organizzata e come si è arrivati ieri allo sgombero intanto, no? Allora, questa occupazione era un'occupazione appunto, come detto, in zona Casalbertone, esattamente in via Castel Guidone, e rientrava appunto nello Tsunami Tour. Era una comunità di Rom, tutti provenienti dalla Romania, che si erano uniti ai movimenti per il diritto all'abitare, stanchi di vivere sotto le intemperie, continuamente vessati dalla polizia nei campi cosiddetti abusivi o spontanei, hanno deciso di occupare in rete con tutti gli altri un edificio abbandonato delle Ferrovie dello Stato, ex uffici, e si sono stabiliti lì erano ormai 6 mesi, quando ieri c'è stato un intervento, ieri mattina, della Polfer. Questa è la particolarità, cioè non è partito né dal comune né dalla questura, ma la Polfer stessa, ossia polizia praticamente privata delle Ferrovie dello Stato, è intervenuta addirittura con dei lavoratori, con delle pettorine, per sgomberare in maniera autonoma, indipendente, questo spazio, sostenuta successivamente dalla questura, che è arrivata con i blindati, e è intervenuta successivamente anche il comune, che dice di essere stato informato a cose già fatte. Comunque fatto sta che quelle persone, che erano 25 nuclei, sono state buttate senza soluzione in mezzo alla strada, così come avviene normalmente per gli sgomberi, ignorando anche quella che è la delibera regionale che è stata approvata proprio pochi giorni fa sull'emergenza abitativa, nella quale questa occupazione rientrava, quindi violando qualsiasi cosa. Da lì abbiamo deciso, come associazione, insieme alla comunità e insieme ai BPM, di andare sotto l'assessorato delle politiche sociali a chiedere conto a loro di quanto stesse avvenendo. Ci siamo stabiliti lì praticamente da mezzogiorno e siamo rimasti in un presidio permanente, che ha avuto anche attimi di tensione, perché poi anche l'assessorato è stato presidiato dalla polizia praticamente fino a notte fonda, fino più o meno a mezzanotte, quando finalmente l'assessorato ha tirato fuori le soluzioni possibili, ha continuato per l'intera giornata a proporre di dividere donne e bambini da una parte e uomini per strada, cosa assolutamente inaccettabile. Avevamo deciso di aprire le tende lì e di rimanere lì. A questa condizione si sono, tra virgolette, arresi, hanno aperto uno dei tanti residence che hanno a disposizione e dove sono state appunto accolte le persone, e dove sono accolte le persone in questo momento. Senti, una cosa che ci aveva stupito era che in pratica l'assessore, quindi diciamo la persona più alto in grado per quanto riguardava l'amministrazione comunale, ha un po' se ne è lavato le mani, per carità, però insomma ha detto che non c'entrava niente. È piuttosto, diciamo, curioso uno sgombero praticamente autogestito da parte di Polfer e Trenitalia, fuori, diciamo, da quelle che dovrebbero essere le normali dinamiche di questo tipo, il che ci fa anche ragionare, insomma, su chi in effetti comanda in questa città e come anche dal punto di vista del comando siamo di fronte un po' a una deflagrazione, no? di chi dovrebbe organizzare e gestire anche gli sgomberi, oppure è soltanto una questione di facciata secondo te, secondo voi? Secondo noi, guarda, incontrandoli ieri abbiamo avuto 4 incontri con loro. La particolarità è che la Cutini, cioè l'assessore, è completamente sparita, non abbiamo avuto modo di incontrarla, non sapevamo se era all'interno del palazzo, se era all'esterno, se era a celebrare la giornata della memoria, perché il paradosso è proprio che ieri fosse la giornata della memoria, e il giorno si ricorda anche tra gli altri i Rom sterminati, quindi in quello stesso giorno c'erano diverse celebrazioni a Roma, non sappiamo dove fosse. Abbiamo parlato con la sua segreteria sempre, che si è interfacciata fino appunto a notte fonda, di lei non abbiamo avuto notizie, e la sua segreteria ci ha espresso il fatto che questo, appunto, iniziando dal dire non è di nostra competenza, non dipende da noi, ha poi detto è un problema politico. Noi abbiamo fatto presente che ciò che avviene sul territorio di Roma è responsabilità di Roma Capitale, se così non è ancora più grave. Quella che sarà l'impressione nostra, ti devo dire, vedendola così in presa diretta, è stata che effettivamente loro non sapessero niente all'inizio di quanto stesse accadendo. Questo è ancora più grave, probabilmente, perché vuol dire che veramente a questo punto i grandi proprietari o le grandi ferrovie dello Stato possano fare quello che vogliono in questa città, che questi non hanno assolutamente il controllo di nulla dentro la città. Senti, l'impressione è stata quella. Senti, nel corso di questi mesi di occupazione, l'occupazione, diciamo, è stata sotto l'occhio vigile dei giornali, di alcuni giornali. Insomma, noi sai bene che in questi ultimi giorni ci stiamo dando particolare attenzione a come la città venga raccontata dai media, dai più differenti media. Ecco, una occupazione di quel genere, poi oltretutto portata avanti da famiglie Roma, quindi con tutto quello che questo comporta, diciamo, a livello di immaginario, a livello di mass media, come è stata trattata in questi mesi, se è stata trattata ovviamente, oppure se non la si è voluta guardare. È faticoso ogni volta che c'è un'occupazione fatta di Rom passarla come occupazione e non come campo. Ieri abbiamo passato tantissimo tempo a spiegare che non era un campo, no, Rom, come se il fatto che sia un campo dia l'autorizzazione a sgomberare e lasciare la gente per strada, però questa è un po' la mentalità. E a livello di stampa noi ci siamo resi conto, o almeno di seguito che c'è stato, che il trattamento è stato completamente diverso anche da parte delle le cosiddette associazioni amiche, che poi non sono amiche, all'era Alemanno. L'era Alemanno bastava sfiorarlo un Rom e si stracciavano le vesti, da SEL al PD, passando per tutte le associazioni. Ieri questo non è avvenuto, perché non fa il gioco di nessuno, effettivamente, se non penso il Messaggero. Io oggi non ho letto l'articolo, però che il Messaggero ieri si è fatto vivo, quelli pur di attaccare Marino sfruttano anche, riescono a sostenere anche i Rom probabilmente. Sì, infatti c'è una, ciao, intanto c'è una collezione di articoli, ciao, sul Tempo e sul Messaggero che puntano proprio su questo, mettono in particolar modo il Tempo mette in evidenza, come il titolo è "Occupare si può, tanto c'è SEL che ti difende", per dire il tono, insomma, dell'attacco dell'articolo del Tempo. Sarebbe, e poi parla degli sgomberi di ieri. Ieri dove fosse finita, perché abbiamo cercato anche un sostegno istituzionale che non è arrivato. Appunto, c'erano questi 3 tecnici dell'assessorato che giravano e cercavano di trovare soluzioni tecniche, pur ammettendo che il problema fosse politico, ed erano appunto spariti tutti. Quindi è un po', ecco, un po' sì, i Rom sono sempre quelli che vengono utilizzati, in questo caso ancora di più, perché siamo all'interno dello spazio appunto delle occupazioni, quindi di una situazione per cui riescono a capirla, perché loro immaginano che queste siano animali che devono vivere dentro i campi, dentro i recinti dei campi, quindi non riescono a capirla. E soprattutto gli crea un problema ulteriore, perché secondo anche gli ultimi riscontri economici, cioè le politiche sui Rom hanno coinvolto a Roma sono stati spesi dal 2005 al 2011 86 milioni di euro solo per i Rom, che non si capisce dove siano andati. È chiaro che scardinare il sistema campi e dire che i Rom devono stare nelle case e affrontarlo insieme agli altri che vivono la stessa emergenza, siano essi italiani o migranti, fa comodo veramente a pochi. Esatto, perché poi su quella torta di 86 milioni ci hanno mangiato veramente tutti, nessuno escluso, quindi... Vabbè, questo è uno degli aspetti che noi da queste frequenze abbiamo, ricordiamo, non dico quotidianamente, ma abbastanza spesso. Certo. Anche se poi forse un giorno sarà il caso di cominciare a fare i nomi e cognomi delle strutture, delle cordate, dei soggetti, anche sul piano di confronto politico, nel senso che non serve poi, almeno io non credo, questo è il mio punto di vista, la questione... non, bisogna sempre stare attenti alla tentazione di scivolare in un giustizialismo, come dire, d'accatto, no? Per cui mandare alla sostanza delle scelte politiche che poi permettono un certo tipo di gestione anche dei fondi che formalmente vengono affidati per l'emergenza Rom. E a me viene sempre in mente, ma qui mi fermo, che un vecchio economista diceva che la, diciamo, il primo effetto della scuola pubblica da un punto di vista della distribuzione del reddito fu quella di arricchire purtroppo, diciamo, le giovani laureate che lavoravano 6 ore al giorno e che erano quasi sempre mogli di funzionari statali. Lo so che può sembrare un discorso un po' assurdo, però da un punto di vista della storia di come si sono formate certe classi medie è curioso. Adesso non c'entra nulla, non voglio confondere la scuola pubblica e gli effetti benefici che ha avuto, però bisogna tener pure conto che quando si tratta del welfare gli effetti sono sempre contraddittori. Si parte bene e poi si scopre che, diciamo, il grosso dei soldi non finisce mai a chi ne avrebbe in teoria bisogno, comunque quelli che tu sbandieri come gli obiettivi del tuo intervento, ma si disperdono invece in una serie di rivoli che in realtà tendono, come dire, a riprodurre il meccanismo dell'esclusione, ma questo ne abbiamo parlato molto. C'è un interessante documento per approfondire questo, penso l'abbiate passato per radio, ora non lo so esattamente, che è il documento che è stato prodotto dall'Associazione Lunaria recentemente, è un dossier in cui si ragiona proprio e queste cifre, appunto, gli 86 milioni sono tirate fuori da loro, su come tra Roma, Napoli e Milano siano stati spesi i soldi, in che modo e quanti, ecco, lì nome e cognome di tutti escono fuori da quel... da cui è reso conto, si trova anche sul loro sito, appunto, su quello di Lunari. Sì, fra l'altro poi, insomma, diciamo, un'occupazione di questo tipo, ragionando in termini beceri, risolve peraltro un sacco di problemi anche a livello, come dire, di intervento finanziario pubblico, perché appunto si tolgono persone dai campi, si tolgono persone dal degrado, con tutto, come si suol dire, con tutta una serie di riscontri positivi, però quando arriva la mano della rendita. Basti pensare che loro ieri loro vivevano appunto in questo edificio a Casa Albertone, che era in ottime condizioni, seppure, cioè, nel senso, l'avevano rimesso a posto, avevano creato gli spazi all'interno, cose che sono state demolite tutte ieri appunto dalla Polfer, che poi è entrata all'interno, e oggi quelle stesse persone si trovano in un centro che è stato aperto appositamente stanotte e che è stato affidato, guarda caso, a quelli che loro definiscono i nostri, loro intendo l'assessore delle politiche sociali, definiscono i nostri partner usuali, che sono tutta quella serie di cooperative legate ad Arci Confraternita, quindi legate al Vaticano, che prendono che gestiscono poi tutta l'accoglienza a Roma, praticamente tutta l'accoglienza a Roma, e che prendono una quantità di soldi allucinante, appunto, per spazio. Ora loro hanno un nuovo lavoro, insomma, il comune dovrà pagare altri soldi per una condizione che era già risolta in un certo senso. Vabbè, è un argomento complesso, magari l'approfondiremo in un'altra occasione. Noi speriamo naturalmente che questo esito del residence sia un esito temporaneo, nel senso che le famiglie, chi con loro ha condotto questa battaglia, trovi al più presto la strada, anche attraverso, diciamo, come dire, il solidale apporto dei movimenti di lotta per la casa, ma anche di tutte le realtà sociali e politiche che su questo non hanno peli sulla lingua, per ritrovare una strada di autonomia e libertà, perché questa questo non c'è dubbio, questo l'abbiamo fatto presente anche ieri, nel senso che ci troviamo appunto di fronte a persone che si ritrovano all'interno di questa delibera, quindi era necessaria la presa in carico da parte del comune, anche per dimostrare che effettivamente è vero quello che è stato scritto su quel pezzo di carta. Dopodiché la via dell'autodeterminazione e dell'auto-organizzazione è quella che prediligiamo noi e prediligono anche loro stessi, perché se ne rendono conto anche loro stessi, e quindi sicuramente sono già stati avvisati che non è finita qui, insomma, questa storia. Anche perché penso che ci sono già nella nostra città, per fortuna, esempi che vanno avanti da tempo e che hanno mostrato come questa sia, insomma, la via non solo maestra ma foriera di sviluppi positivi da questo punto di vista. Va bene. Gianluca, ti ringraziamo e ci aggiorniamo per, insomma, quello che succederà e anche per tutto il resto. A prestissimo. Benissimo, grazie a voi, buona giornata a tutti e tutte. Un abbraccio, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Allora, noi continuiamo, in realtà abbiamo aperto con questa corrispondenza perché comunque riguarda una vicenda che è di stretta attualità, ma abbiamo fatto riferimento un po' alla stampa, perché sulla stampa di oggi, in particolar modo la stampa di destra, o comunque una stampa che risponde a precisi punti di vista, oseremmo dire di classe, in questa città. Beh, ma insomma, che lì anche se un po' lontano, le classi si sono, come dire, unificate in un ibrido un po', sì, curioso. Anche se però Banca Italia ha detto stamattina che le classi ci sono, ci sono la prima, la seconda, l'ha detto Banca Italia, mica. Appunto, sì. Comunque, vi raccontavamo di questa vicenda che è a pagina 16 della cronaca di Roma del Tempo, perché in realtà segnala proprio questi due fatti. In particolar modo segnala lo sgombero dell'occupazione da parte di famiglie rom di questo edificio a Casalbertone e continua la sua polemica attaccando l'occupazione degli ex bagni pubblici di Garbatella accanto al Palladium, che sono stati occupati per farci una biblioteca. In realtà questo edificio era destinato a farci una biblioteca e chiuso da tempo ospitava un mobilificio, è di proprietà dell'Ater, e è stato occupato in questi ultimi giorni, e su questo, diciamo, si è aperto una vicenda piuttosto complicata. Ve la riassumiamo velocissimamente. La vicenda complicata che si è aperta è che appunto, a fronte dell'occupazione dello spazio per farci una biblioteca, si è scatenata una crisi istituzionale nel centro-sinistra del municipio, che però il tempo ci racconta sia arrivato addirittura neanche in comune, in regione, e neanche in regione, diciamo, a livello di politici di consiglio, direttamente al presidente della regione. Perché il PD locale della zona di Garbatella, che risponde al municipio numero ora 8, avrebbe, rispetto a questo atto di inaudita violenza, poi leggeremo degli stralci dell'articolo, promosso un regolamento di conti. In realtà si sono dimessi dalla giunta del municipio 8, che tengono insieme a Sel, e insomma si è aperta una diatriba. Forse sarebbe interessante, se riusciamo a sentire direttamente gli occupanti della biblioteca per farci raccontare perché l'hanno occupata, che cosa ci vogliono fare, ma questa parte dell'argomento, cioè questa questione di come in qualche maniera su questi piccoli fatti, chiamiamoli piccoli fatti, si stanno giocando delle partite politiche, noi ci vorremmo arrivare piano piano segnalandoli, teneteli a mente, ci stiamo ragionando sopra, anche perché l'altra grossa notizia che c'è, ce la segnalavi durante la rassegna stampa, è sul Messaggero, nella cronaca di Roma, con Leoppio, la guerra degli sgomberi. Che anche questa è una questione politica, diciamo, e non soltanto di ordine pubblico o di questioni così di sopravvivenza, perché i profughi del Colle Oppio non stanno lì a caso, ma stanno lì perché si trovano vicino a un centro che comunque da loro... Alla mensa della Caritas. E quindi, diciamo, fare una campagna da questo punto di vista presuppone anche che tu vai a rompere le scatole anche alla Caritas se sei un giornalista. Sì, diciamo che la situazione lì è piuttosto complicata, nel senso che lì si viene in luce in maniera immediata l'assoluta incapacità di costruire un terreno di una qualunque condivisione con questi migranti, soprattutto uomini, anzi solo uomini. Io ho visto solo uomini in questo accampamento, che aveva delle caratteristiche molto particolari, molto significative da questo punto di vista, perché comunque insiste su un'area particolare che però storicamente, lo ricordiamo a tutti coloro che hanno la memoria corta, è uno dei principali luoghi di aggregazione e di insediamento anche storicamente delle comunità immigrate di profughi. Se qualcuno se lo ricorda, ci fu una lunga stagione in cui alcune centinaia, forse addirittura migliaia di curdi, esuli dal Kurdistan, più o meno esuli economici, più o meno esuli politici, più o meno comunque che vivevano il conflitto da parte dello Stato turco in Kurdistan, vivevano all'interno della villa di Colleoppi. Lì stavano proprio dentro, in qualche caso. Sì, insomma, variamente presenti all'interno della struttura. Quello che c'è di particolare in questa vicenda è che c'è appunto questo rapporto con la Caritas, in qualche maniera, in una situazione che è già fortemente segnata dalla presenza dei migranti. La polveriera, quella che noi chiamiamo così, che è il campo di calcio di fronte al Colosseo, però. Esattamente, la polverera, perché è questo campetto che quando non piove insomma alza delle nuvole di polvere, è uno dei luoghi tradizionali di sport popolari per molte comunità migranti, in special modo latinoamericani, ma anche diversi. Peraltro è un posto estremamente vivo, estremamente bello da vivere. Anche con dei problemi di convivenza, ma comunque un posto molto vivo, pieno di bambini la domenica, il sabato, alcuni giorni della settimana, in cui c'è un uso straordinariamente sociale di uno spazio che normalmente è pochissimo frequentato. È un campo di pozzolana nel niente, però. È un campo di pozzolana nel niente, che però vive e rivive, diciamo, in queste occasioni. In più, sempre su questo argomento, la villa in generale è storicamente un luogo di sosta e di attraversamento per la sua prossimità alla stazione e per essere un luogo in cui molti immigrati, nei loro brevi spazi, diciamo, di vita liberi dal lavoro o quando sono disoccupati, trovano comunque un luogo di socializzazione e di scambio tra le diverse comunità, anche alla ricerca di un lavoro piuttosto che di un po' di solidarietà. Diciamo, i picnic degli immigrati, di una parte degli immigrati romani, perché poi di queste realtà ce ne sono molte diffuse in tutta la città, vedono in quella villa, diciamo, una parte significativa. Qui dietro c'è una vicenda legata all'appalto della manutenzione della villa, che per quanto ne so io era prima un appalto legato a una cooperativa di ex detenuti che manteneva, diciamo, una media di pulizia dello spazio. Questo appalto è stato contestato dalla nuova giunta, crediamo forse anche a ragion veduta, visto le medie degli appalti della giunta precedente. Fatto sta che si sono sommate due emergenze, cioè l'assoluto abbandono da un punto di vista delle pulizie della villa e contemporaneamente la presenza di un nucleo significativo di migranti accampati nella parte più esterna, quella che dà più verso la facoltà di ingegneria, con cui, diciamoci la verità, nessuno ha costruito un rapporto di nessun tipo, forse anche complice una difficoltà di queste persone a percepirsi come un soggetto al di là della loro condizione di migranti. Adesso non conosciamo i dettagli, fatto sta che questo è tipo il 20° sgombero. Sì, sì. Dopodiché sono profughi e quindi dopo averli sgomberati stamattina improvvisamente è arrivata l'AMA e sta ripulendo tutta la zona. L'ha fatto già 7-8 volte. Poi puntualmente la situazione, nessuno pensa che forse questi siano esseri umani con cui mi andrebbero messi seduti senza divise intorno e senza manganelli e senza funzionari, senza preti che gli dicono che devono andare a vivere a 40 km da Roma, che devono rientrare a casa la sera alle 8, che non possono bere una birra, che sono, insomma, si parla di ragazzi giovani comunque. Poi senza quell'apparato di controllo che normalmente accoglie, ce lo segnalava prima il compagno che ci parlava dei Rom, quelle che sono definite le emergenze. Forse quando poi l'accoglie, quando quella l'accoglie. È la migliore delle ipotesi, quando l'accoglie. Diciamo che probabilmente è anche, come dire, un tentativo di una fuga per la libertà da questo punto di vista. È anche la condizione drammatica con questo freddo a dormire in delle tende, un po' supportato anche dalla giovane età di molti di questi migranti, è comunque meglio di una caserma gestita da dei preti che ti dicono esattamente quello che devi fare e quello che non devi fare, quello che puoi fare e quello che non devi fare. Sono storie che si ripetono nel tempo. Nessuno ha pensato che forse era possibile metterli seduti e ragionare insieme sul loro futuro qua, da un'altra parte, in Francia, in Spagna, dovunque volessero andare, qua dentro la città, a trovare una soluzione. E questo forse è un limite un po' anche di tutti noi, no? Dell'incapacità. Poi ci sono state le classiche speculazioni dei ben pensanti che in quella zona hanno una radice esatta nella destra sociale, per cui con le fiaccolate, peraltro neanche tanto aggressivi, nel senso che... No, ma oltretutto, se, diciamo, sempre dando un'occhiata alla cronaca romana di oggi e di questi giorni, a cui stiamo dando più importanza del solito, anche detto che anche i quotidiani di destra di cui si parlava prima, diciamo, suonano in qualche modo sì contro il degrado, contro la villa che è sporca, insomma le solite cose che conosciamo, però anche loro hanno una grossa difficoltà a capire il da farsi. È un po' quello che succede, diciamo, spesso con la cronaca di internet, no? Per cui tu fai la foto del degrado, in questo caso per esempio sul Messaggero mi pare c'è tutta una fotosintesi degli avvenimenti col ragazzo portato via dal poliziotto, eccetera eccetera, e dici sotto: questo è brutto, però non sai né leggerlo né interpretarlo né dare uno straccio di soluzione. Così non vai oltre la foto di un qualcosa che non va, ma non riesce a dare. Però noi registriamo un grosso rischio da questa situazione, perché l'abbiamo detto anche parlando di altre vicende che poi affronteremo in questo spazio che c'è questa mattina, ancora un po' legato al discorso sul degrado nella città, l'emergenza sicurezza. C'è il grosso rischio che si saldino interessi diversi in questa città, interessi che provengono sia dalla vecchia composizione della giunta Alemanno, sia dai nuovi soggetti che si propongono di, tra virgolette, pesare dentro la giunta Marino, sia da soggetti interni alla giunta Marino, certo, che non è un monolite naturalmente, no, come tutte le cose. Pure lì siamo in una fase di assestamento, ecco. Ecco, nell'assestamento, diciamo, giocare all'emergenza sicurezza e far vedere chi c'ha i muscoli è una tentazione che io personalmente ho paura che si verifichi. Adesso non possiamo imputare niente di particolare, o perlomeno forse possiamo imputare qualcosa, però certo la foto con il corpo speciale dei vigili urbani che ammanetta i migranti a Colle Oppio è una cartolina che la giunta Marino spende nei confronti dei residenti di bene del Colle Oppio, che come si sa sono residenti di quella parte dell'Esquilino, diciamo di quel Esquilino Monti, estremamente, come dire, di una buona borghesia, non elettorato tipico del centrosinistra, almeno non tutto, diciamo, nella sua... Anche se ormai pure l'elettorato è talmente deflagrato, per cui è difficile. Sì, però diciamo che le pressioni congiunte di questi soggetti, e anche lo denunciavamo nella trasmissione, in alcune trasmissioni precedenti, di alcune operazioni che vanno sotto il nome di Roma fa schifo, di alcune lobby che si propongono di rivendicare i diritti dei cittadini bravi, bianchi, anglosassoni, biondi, WASP, protestanti, no, perché qui siamo tutti cattolici. Anzi, gli immigrati spesso sono protestanti, evangelici, sì, e quindi sempre, eretici. Anche questo in quel caso sarebbero eretici, e quindi vabbè. Insomma, che il disposto congiunto di queste pressioni portino anche a vicende come quelle di ieri. Sarà stata la Polfer, indubbiamente, sarà stata la Grandi Stazioni. Poi la Polfer non è una polizia privata, la Polfer è la polizia di Stato che si occupa degli impianti ferroviari, insomma, vedi, c'ha una sua struttura autonoma, ma è una struttura autonoma come quella della questura, insomma non è che proprio siano dei... Non sono vigilantes, però è comunque curioso che decida di sfidare da questo punto di vista la giunta su un terreno che in qualche maniera si capisce che è delicato, perché la tentazione di giocare ai sindaci sceriffi che sostituiscono, che si fanno campagna elettorale, che si fanno consenso attraverso un decisionismo di tipo tutela dei cittadini contro i malfattori, è sempre dietro l'angolo. Noi ci prendiamo un brevissimo spazio musicale, poi dovremmo trovare una sigla, se l'abbiamo trovata, per ritornare alla nostra ragionamento sulla su due vicende. Una è ancora nativi contro conigli morti, i Five Points alla Matriciana, e su questo cercheremo la sigla. Però intanto ci prendiamo un pezzo di musica. Ci proviamo, vediamo se ci prendiamo un pezzo di musica prima, però prima. Allora, buongiorno, siamo in collegamento con una compagno comunque che è, spero se aver capito bene, protagonista dell'occupazione alla Garbatella degli ex bagni pubblici molto vicino al Palladium. C'è una proposta di farci una biblioteca. Intanto buongiorno, come va? Buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno compa. Allora, raccontaci un po' intanto dell'occupazione, come nasce, come va, insomma, come sta andando. Allora, questa occupazione un po' anomala, che è nata solamente 4 giorni fa, era venerdì 24, abbiamo insieme a un largo gruppo di compagni e compagne, cittadini e cittadine del territorio, che in gran parte lavoravano già da diversi mesi su una serie di vertenze municipali sul ex municipio 11, attuale municipio 8, quindi Garbatella, San Paolo, eccetera, eccetera, che si lavoravano con, come collettivo laboratorio Playlab, deciso di occupare gli ex bagni pubblici di Garbatella, dentro un'occupazione un po' anomala, ti dicevo, perché poi, noi siamo entrati... Poi, aspetta, che questa cosa la dobbiamo raccontare. Dico. Nel senso che i bagni pubblici di Garbatella sembra una battuta, ma erano proprio i bagni pubblici in cui, diciamo, in un vecchio quartiere popolare assolutamente. Tra, diciamo, la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, adesso la data potrei anche confondermi. All'inizio del Novecento erano l'unico luogo in cui le famiglie operaie di Garbatella potevano trovare un luogo in cui farsi un bagno, una doccia. Esattamente, se dovessimo, e credo che questa iniziativa di questi giorni servirà anche a questo, a strappare un pezzo di memoria di questo territorio che in qualche modo era a rischio di essere lottizzata e svenduta fisicamente. Perché peraltro, gli ex bagni pubblici, ricordiamo pure che cosa c'era dentro fino a poco tempo fa. Esatto, perché gli ex bagni pubblici di Garbatella, dicevi bene te, un quartiere prevalentemente edilizia popolare, almeno all'inizio della sua storia, dove nei famosi alberghi rossi di Garbatella, che tutt'oggi esistono, non c'erano i servizi igienici, ci stava però il palazzo dei bagni pubblici in cui si poteva andare a lavare, eccetera eccetera. Il palazzo è rimasto di edilizia popolare, quindi di proprietà oggi dell'ente regionale Later, che però negli ultimi 20 anni l'aveva messo a rendita affittandolo a un mobilificio, che quindi l'ha occupato negli ultimi 20-30 anni e che però, crisi o non crisi, quello che vuoi, nell'ultimo anno ha dovuto lasciare il canone d'affitto, ha dovuto lasciare lo spazio, quindi ha lasciato vuoto lo spazio degli ex bagni pubblici di Garbatella, e tutti quanti ci aspettavamo in qualche modo un futuro diverso per questo spazio, che veniva da tutto il quartiere, ma anche da tutte le altre forze politiche del Consiglio Municipale, del Municipio 8, richiesto come uno spazio a fini pubblici, e che invece non si sbloccava questa situazione. Non si sbloccava, e diciamo che è stata necessaria l'iniziativa di questo laboratorio territoriale, un comitato di quartiere, un comitato municipale, possiamo chiamarlo così, che già da diversi mesi lavora su tante questioni del quartiere, e che il 24 ha deciso di entrare dentro gli ex bagni pubblici e reclamare un futuro di bene, un futuro per quello spazio pubblico, un futuro di quello bene che lo mettesse al centro come bene comune piuttosto che come spazio dedicato alla rendita. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, intanto noi però registriamo su questo questo articolo sul Tempo, che ci ha aiutato anche a... lo so che è un giornalaccio che non bisognerebbe citare, però dà dei segnali anche, no, delle politiche in questa città, delle scelte. Registriamo questo articolo che mette in luce in qualche maniera una forte polemica che si è aperto in quel municipio a livello istituzionale. Addirittura arriva a raccontare che sarebbe stato, su questa questione si è spaccato il municipio, si sono spaccati i DS nei confronti di SEL, siamo arrivati addirittura a investire il presidente della regione della questione, in quanto credo titolare tra virgolette dell'ADER, perché l'ADER è un ente regionale, contro la biblioteca sostanzialmente, se ho capito bene. Sì, sì, ma cioè, io non so purtroppo dell'era di DS, so dell'era del PD, però è vero, io so di un'era antica, addirittura io mi ricordavo pure il PC, però pure il PCD, PCD che peraltro, no, vabbè, insomma, vedi, vabbè, sì, dicevamo, no, ci siamo confusi, è l'età. No, diciamo che in questa città, quando ne deve succedere una, invece ne succedono 10, purtroppo la maggior parte delle volte 9 su 10 non so come vorrebbero che andasse, soprattutto chi quotidianamente fa i territori. Beh, noi siamo entrati dentro questo spazio, è partita questa avvertenza che tra l'altro oggi, proprio oggi, sembra avere un cambio, cioè potrebbe avere un'uscita ancora migliore, perché noi siamo entrati dentro questo spazio chiamandolo l'uso pubblico e la sua valorizzazione culturale e sociale non monetizzata, e quindi un tavolo col comune e la regione proprio per la trasformazione di un bene che fino a ieri era a rendita in un bene pubblico. Noi chiediamo che là dentro il comune e la regione ci mettano la biblioteca comunale e che tutto il resto dello spazio poi sia progettato insieme al municipio dentro dei tavoli pubblici per decidere le funzioni che vanno là dentro. Questa forzatura, che a nostro parere, a parere di chi in questi giorni ha animato questa occupazione, era necessaria, perché nell'arco di poche ore siamo riusciti a sbloccare una situazione che dentro le maglie amministrative di questa città, politiche amministrative di questa città, non si sbloccava, perché probabilmente qualcuno aveva degli interessi sopra quello spazio, senza dover aggirare chissà quei fantasmi, ma uno spazio del genere a 20.000 euro al mese sono pochi i tipi di esercizi commerciali che se lo possono permettere dentro questa città oggi. Tipo un McDonald's. Beh, va? Tipo un bel McDonald's, un bel supermercato, un bel bingo, come nel resto della città accade quotidianamente. Beh, questa frattura, questa forzatura che si è costruita, che si è data dentro il territorio di Garbatella, ha creato uno scompenso che a leggere i comunicati stampa sembra completamente fuori una bomba atomica, ma che tu leggi i comunicati stampa e dici ma ci sarà una logica alternativa a quella che propone il laboratorio Play, Moby Dick, la biblioteca che verrà, chi oggi sta animando questa occupazione. Invece no, ci stanno comunicati stampa in cui si accusa, si sposta il tema del dibattito sul problema legalità e illegalità, occupazione o non occupazione, siamo tutti d'accordo sul fatto che lasciamo io la biblioteca, però chi sta là oggi l'ha detto, è colpevole e sta facendo qualcosa che lede in qualche modo al territorio. Perché? Perché pratica il diritto di stare dentro gli spazi pubblici, pratica il diritto di rivendicare i beni comuni. Beh, ti devo dire qua, una cattiveria. Te la posso dire, poi tu c'hai tutta la possibilità di replicare a questo. Ma tu dimmi tutte le cattiverie che... No, ma te la dico perché deve animare anche una discussione sincera, nel senso che qualcuno dice no, vabbè, ma hanno occupato la biblioteca perché così poi dopo la gestiscono loro. La biblioteca era già decisa, c'erano i tempi delle istituzioni, così la gestiscono loro. No, io te la riporto, nel senso che è una fonte facilmente che si trova. Tieni presente che questa la fonte in questo caso è un curioso sito molto attivo sui social network, sì, che si chiama Roma fa schifo. Ah, che conosciamo bene Roma fa schifo, che è talmente puntuale, è talmente puntuale che pensa che ieri mattina, quindi a 2 giorni dall'occupazione, postava un tweet che diceva così: signor presidente del municipio, si chiama Catarci Andrea. Andrea. Dentro la biblioteca si fuma. Testimonianza oculare. No, sembra una stupidaggine, no? Cioè tu dici vabbè, sembra uno scherzo. Però invece guarda che c'ha una logica da un punto di vista di questa campagna, no? Di denuncia del degrado, certo, delle cose, no? Certo. Cioè sono puntuali questi, stanno sul territorio. Questi prima stanno sul territorio, ma sì, no, ma ne conosciamo bene, sono molto attenti quando succede che c'è sta un manifesto attaccato non su una pensilina ma sopra il muro del palazzo, però poi quando, come per raccontare sempre eventi recenti, sempre di cui sarei stato protagonista sul blog, prende fuoco uno spazio sociale, ne reclamano l'incendio di tutti gli spazi sociali di questa città, perché giustamente chi crea degrado in questa città non deve essere dato fuoco, non deve essere sempre scusa poi su qual è il tipo di degrado che questa città assiste quotidianamente. Senti, io ti ho interrotto, però tu ci stavi dicendo invece una cosa importante, che sembrava comunque, in qualche maniera che c'è una svolta su sta vicenda. Pare che noi dobbiamo gestire questa biblioteca. Mo, non lo so, io non impiegato comunale non lo sono. Noi se abbiamo fatto un discorso molto semplice, guarda, se dovessi raccontare pure le suggestioni con cui siamo organizzati in questi giorni all'interno dei Moby Dick, cioè di questa biblioteca che reclamiamo dentro un municipio in cui non c'è nemmeno una biblioteca comunale, nonostante ci sia l'Università di Roma 3, quasi tutte le facoltà dell'Università di Roma 3, eccetera eccetera, non c'è nemmeno una biblioteca comunale. Questa era un problema, una rivendicazione sacrosanta. Quindi oggi reclamiamo questa cosa e diamo la possibilità di metterci dentro un'ottica pure intelligente, proviamo a fare ragionamento intelligente, ma uno spazio che non so se gli ascoltatori, compagni e compagni che stanno adesso in ascolto, ma chi pure te Lu, se siete passati in questo spazio in questi giorni, oppure vi invito a farlo oggi in cui ci sarà una grande iniziativa. Il posto è bellissimo, nel senso c'è questa... Da tre in poi è un posto straordinario. E non ti dico senza problemi che molti di noi in qualche modo, se questa vicenda prenderà il migliore dei risvolti e succederà quello che in qualche modo abbiamo fatto in modo di far accadere, cioè che il Comune di Roma e la Regione si impegnino fisicamente, concretamente, con un atto scritto che viene consegnato anche al Comitato di Occupazione che in questi giorni sta dentro la biblioteca per fare un protocollo d'intesa in cui si toglie la possibilità che questo spazio diventi uno spazio messo a rendita e ci sia un progetto di biblioteca, di centro di documentazione, comunque di uno spazio culturale dentro Garbatella e di un futuro per quello spazio di questo tipo qua. Beh, Bobby Dick si sposterà, rimarrà là dentro, ma cercherà di spostare il piano della discussione su un altro livello, reclamerà una progettazione partecipata su quello spazio, ma lascerà l'occupazione affinché effettivamente questa roba si concretizzi. però noi stiamo alla prova dei fatti, vogliamo vedere quello che succede nelle prossime ore. Credo che oggi ci sono buone possibilità, con tutti gli scontri del caso, che questa battaglia vada a vittoria, che quello che hanno dimostrato le cittadine e cittadini, i compagni e compagni di Garbatella e del municipio e di Roma, che in questi giorni hanno animato la biblioteca Moby Dick, la biblioteca che verrà, sia un'idea che ci richiama un po' pure a una narrazione zapatista che qualche anno fa se stiamo allargando poi ce lo racconto. Ci stiamo allargando per i tempi anche della messa in onda in radio, per i temi che dobbiamo trattare, no, nel senso, le suggestioni sono mille, naturalmente non volevo maltrattarti, ma semplicemente ci sono tutti. Ma hai fatto bene, lui. Se qualcuno di noi, noi intanto questo volevo dire, dipendenti comunali non siamo, se il comune è intelligente ci fa lui la biblioteca comunale, noi la vogliamo solamente progettare pubblicamente con il resto del quartiere, e poi chi ci andrà a lavorare saranno i dipendenti del comune di Roma e chi altro, come dire, prenderà come con bando pubblico, come cazzo gli pare, la gestione di questo spazio, che però deve diventare uno spazio pubblico. È chiarissimo. Poi magari ci saranno altri spazi in cui approfondire pure limiti e risorse di questa proposta, che comunque è una proposta diffusa su quel territorio. Magari ci saranno altre occasioni. Oggi è importante segnalare questa vicenda, segnalare anche un certo tipo di attacco politico, segnalare il fatto che comunque bisogna mantenere l'attenzione alta. Noi ti ringraziamo e naturalmente grazie mille a te, lui, scusa per la lunghezza. No, assolutamente. Ciao, grazie. Ciao. A tutti e a tutti, ciao. Allora, questa era un quadretto su questa vicenda. Come sapete, la vicenda in sé, in realtà noi l'articolo non ve l'abbiamo letto, per cui abbiamo dato per scontato che voi conosceste tutte le... Che siete tutti i lettori del tempo, no, soprattutto. Sì, tutti in retroscena, però nonostante l'abbiamo comprato, l'abbiamo portato qui, c'è una sorta di reticenza a leggerlo per filo e per segno, però la sintesi l'avrete... Saremo capiti, ecco. Speriamo di esserci fatti capire, però la sintesi, mettendo insieme queste due o tre notizie, è che in effetti si sta muovendo qualcosa in città, si sta muovendo qualcosa, perché alcune scelte, lo segnalavamo anche nella scorsa trasmissione, in ordine proprio appunto a questo dibattito che abbiamo soprannominato Nativi contro Conigli Morti, i Five Points alla Matriciana, segnalavamo una presa di posizione che ritenevamo interessante del vice sindaco Luigi Nieri sulla necessità che reclamava quell'articolo di un'azione preventiva da parte dell'amministrazione comunale in termini di, diciamo, di gestione dell'ordine pubblico attraverso lo strumento amministrativo, che è qualcosa che veramente fa venire le bolle solo l'idea di mettere ordine pubblico, rappresentanza politica, strutture amministrative, quindi vigili urbani, compiti di polizia amministrativa in funzione di gestione di problemi sociali. Guarda, meglio le guardie, meglio carabinieri, poliziotti e guardia di finanza, perché almeno lo sai, sono deputati, stanno lì per, diciamo, per reprimere i reati, che la polizia amministrativa, che i pizzardoni, che dovrebbero fare altro, diciamo, continuare a tartassare noi poveri romani con le multe, con i controlli dei veicoli inquinanti, con la regolazione del traffico, con le autorizzazioni amministrative, con i controlli, diciamo, di sanità, diventino lo strumento di politiche atte a determinare un percorso piuttosto che un altro in termini di sviluppo della città, a noi ci fa venire, come dire, li conosciamo i vigili urbani. Del resto, chi non li conosce i vigili urbani? Chi non ha mai conosciuto un vigile urbano? Insomma, è un corpo di polizia amministrativa con grandi problemi al suo interno e al suo esterno, con grandi problemi, ma questo è un altro capitolo che apriremo in un altro momento, diciamo, sul suo equilibrio e sul suo rispetto della legalità. Sorvoliamo. Ci abbiamo il pezzo per l'apertura? Forse sì, vediamo. Proviamo se, a sentirlo. Se ci piace questo. Avanti, metteteli in fila! È giorno di elezioni! Dove vai? Brutto muso giallo! Vieni qua! Avanti, in piedi! Muoviti, bastardo! Ci serve il tuo voto! Bastardo! Io ho combattuto per te, negro! Ho perso un braccio per te! Beh, è solo l'inizio! Su, muoviti! Sveglia, gente! In questo nostro grande paese persino i fumatori doppio vanno a votare! Non fare l'artista, Don, sbrigati. Ehi, tu dove vai? Io ci ho già votato. Ho votato per Monk e Temani Hall per Giove. Due volte. Due volte? Solo due volte? Ti pare di aver fatto il tuo dovere? Vieni con me, bello. Hai capito male, torna qua e siediti. Eccotene un altro, ripuliscimelo bene. Rasategli la barba, ragazzi, e rimandateli a votare un'altra volta. Avanti, ragazzi, votare Mock Temani. Mock Temani. Quello che serve alla nostra grande città è un nuovo tribunale. Io propongo che sia modesto ed economico come struttura. Scusatemi un momento. Mock ha già vinto con 3.000 voti più degli iscritti alle liste elettorali. Sono tre e ne voglio. E questo era un estratto sempre da Gangs of New York, in cui in particolar modo si racconta di la vita democratica. La vita democratica, la vita di una New York in piena guerra civile, in cui, diciamo, gli immigrati che sbarcavano e firmavano l'arruolamento avevano immediatamente la cittadinanza, erano come titolari del diritto di voto e quindi venivano avviati, come dire, ai seggi elettorali per gestire quella che è una democrazia nascente, che insomma, vabbè, è chiaro, voglio dire che le implicazioni ci sono anche a partire da una presa di posizione sulle vicende che hanno riguardato in particolar modo San Lorenzo, vicende che vi risintetizziamo, proviamo a risintetizzarle. Vuoi provare a farlo tu, Marco? In maniera molto stringente. Molto stringente, sì. Ci sono stati, diciamo, problemi di ordine pubblico un paio di settimane fa nel corso di una sera, e che sono stati poi riletti dai giornali con molta calma, diciamo, con un paio di giorni sulle principali cronache cittadine, in cui si dava notizia appunto di un quartiere in preda alla movida selvaggia, gli scontri fra bande di spacciatori sostanzialmente, alcune peraltro non autoctone, quindi portatrici, insomma, di ulteriore disturbo, ulteriore dissidio. Sono state anche prese di posizione, diciamo, abbastanza criticabili, possiamo dirlo, di cui abbiamo abbondantemente parlato la scorsa settimana. E il risultato? È come al solito, insomma. Il risultato è che per qualche settimana, per qualche giorno in realtà, Oramai è quasi una settimana, il quartiere di San Lorenzo si trova in stato d'assedio. Non sappiamo esattamente a quali quartieri sono state sottratte le decine di volanti che stazionano dentro San Lorenzo. Pensiamo siano state sottratte al servizio di normale, diciamo, volanti nella città, cioè quando tu chiami il 113. La coperta sappiamo che è corta, ci dicono. Sì, quando chiami il 113 per il gatto sopra l'albero, queste cose qui, no, adesso non scherziamo, ma insomma anche situazioni complicate, serie. Questa è una città grande con problemi serissimi, specialmente nelle sue periferie estreme, con situazioni veramente serie, però stazionano qui a garantire una sorta di pax, con queste luci blu che si muovono in questa notte di San Lorenzo, no? Con questi annunci di arresti, fermi, operazioni antidroga, poi vai a scavare al di là dei titoli dei giornali dove dici fermati due. C'è oggi, non l'abbiamo detto perché era nelle brevi, sempre credo del Messaggero, perché poi, diciamo, oltre un certo limite non c'erano neanche gli altri giornali, c'era l'ennesima operazione antidroga a Pigneto e a San Lorenzo, che poi uno guarda solo il titolo, perché se vai a leggere l'articolo scopri che ci sono stati due arresti a San Lorenzo, uno con 5 grammi di marijuana e uno con 100 euro in tasca, e quindi, diciamo, la notizia non c'è sostanzialmente. No, però bisogna interrogarsi, perché allora, detto questo, diciamo, questo è un po' il quadro, un quadro complicato, anche un quadro, insomma, difficile da interpretare. Ci sono stati gli interventi, cioè le realtà del quartiere sono intervenute. In particolar modo oggi proviamo a darvi conto di un intervento che è uscito su un sito che si chiama Dinamo Press, Roma Europa Mondo, che non è uscito oggi, in realtà è uscito qualche giorno fa, ma insomma è di questi giorni, è una sorta di rassegna stampa cittadina nel weekend, che si intitola 5 proposte per San Lorenzo. Se ho capito bene dal testo, proviene dai compagni di ESC, che è uno spazio sociale di questo quartiere, e riassume brevemente la cronaca di quello che è successo, ma in particolar modo fa delle proposte. Fa delle proposte per risolvere una questione che viene comunque vissuta anche da questi compagni come molto complicata. Questa è sempre Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, il telefono a disposizione per chiunque voglia intervenire e dare il proprio punto di vista su queste vicende. Diciamo che a noi ve lo potremmo leggere perché non è lunghissimo, però abbiamo paura di annoiarvi. Però anche questo testo prende spunto dall'articolo sull'Huffington Post della Laura Eduati, che titolava "Degrada a San Lorenzo, centri sociali si scoprono legge e ordine". Ve ne abbiamo parlato nella settimana scorsa. Anche il titolo, insomma, è roboante. È roboante, molto roboante. E ve ne abbiamo dato conto, criticando l'approccio di questa vicenda e dicendo anche delle cose interessanti. Ci sembra un po' più debole sulle proposte, nel senso che a un certo punto mette in luce come per esempio una logica antiproibizionista trasformerebbe probabilmente questo quartiere. Tenete presente, ne stiamo parlando, che il 8 febbraio è in corso di organizzazione questa manifestazione antiproibizionista che prende spunto da le ultime vicende di dibattito anche internazionale sulla legalizzazione. Ha una lunga storia, però quest'anno sarà particolarmente sarà particolare, perché sia per quello che accade all'interno sia per quello che accade all'esterno, insomma, specie dall'altra parte dell'Atlantico, insomma. Sì, esattamente. Diciamo che propone anche questo tipo di lettura. Poi quando dice che probabilmente con i profitti dei coffee shop si potrebbero risolvere i problemi della finanza pubblica, secondo me, insomma, un po' una sparata di quelle. Insomma, diciamo, c'è ottimismo, però in Nevada dicono lo stesso. No, in Nevada, scusa, in Colorado, non in Nevada. Cioè che risolvono i problemi della finanza pubblica. Boh, insomma, sarà così che dicevo. È chiaro che il traffico di stupefacenti ha enormi profitti, però che noi diciamo che lo Stato si metta a vendere le sostanze stupefacenti facendoci enormi profitti sopra, reinvestendoli in economie criminali, quindi generando quel cerchio di profitti che si espande, che parte dal contante dello spaccio per poi, come dire, invadere tutta la società e come dire, pervadere della logica criminale, gli appalti pubblici, qualunque cosa. Io non credo che sia questa la proposta, per cui andrebbero perlomeno stornate dall'economia criminale i profitti netti. E poi a me darebbe un po' fastidio che l'attività dei coffee shop fosse un'attività particolarmente remunerativa, i futuri coffee shop. Mi piacerebbe più che fosse una cosa tipo farmacia comunale. Quello costa 5 per produrla, te la vendo a 6 quando ho pagato le spese, basta. Tutti sti profitti io non ci vedo, insomma, anche al contadino qualcosa gli devi dare. Tu sei più per la versione uruguagia, non per la versione del Colorado. Eh sì, sì, non mi convince molto questo fatto che potrebbero risolversi degli enormi problemi di finanza pubblica vendendo sostanze stupefacenti. Non so perché, ma sono vecchio. Vabbè, antico. Sei rimasto al PCD, manco al PC. No, al PC non ci sono mai arrivato, ma anche al PCD, devo dire la verità. Anche perché poi stamattina facciamo una cosa divertente. Sul PSR addirittura, molto prima. No, ma ve l'annuncio, ci siamo dimenticati di annunciarvela. C'è ancora l'appuntamento. Eh sì, mo fra... Se riusciamo a chiudere questa lunga rassegna. Chiamiamo il povero Valerio, io diciamo. Ve l'annunciamo, è importante perché è un testo molto bello e molto interessante da leggere, a parte dell'autore Valerio Evangelisti. È un bel tomo che racconta un pezzo di storia italiana a cavallo tra la fine dell'Ottocento completamente in Romagna, rimossa, a parte il suo diciamo principale esponente, che tutti lo conoscono perché quando studi l'ultimo anno sei l'ultimo anno delle superiori, chi è il primo deputato socialista in Italia? Andrea Costa. Però a parte quello, diciamo, il resto c'è poco. Invece il libro è molto interessante. Detto questo, vabbè, c'è questa prima proposta che a noi ci ha lasciato un po' perplessi, sempre 06 49 17 50 per chi volesse intervenire. Ci sono altre cose dentro interessanti. Ci ha convinto poco l'idea di una, diciamo, di una proposta che guarda questo quartiere un po' nella logica di farne un quartiere, diciamo, salotto. nel senso che dice vabbè, questo quartiere manca di attività culturali, l'unica offerta è quella del divertimentificio, trasformiamolo in un centro di cultura, gli artisti, i libri usati, facciamo di Piazza dell'Immacolata la fiera romana dei libri usati e dell'invenduto. Una proposta interessante di per sé. Ho l'impressione che non sia proprio all'altezza dell'emergenza sociale che si vive dentro questo quartiere, però magari mi sbaglio. Cioè, è strano come da una parte si denunci la radicale stato di disagio che vivono centinaia, migliaia di persone, che li porta anche a vivere, come dire, le sostanze psicotrope, le droghe, l'alcol, l'eccessivo consumo di alcol, e poi, come dire, la cura è una cura omeopatica. I libri sono importanti, cioè, ti cambiano la vita, però diciamo devi avere il tempo di leggerli, l'agio di leggerli con comodo, e non è proprio detto che la maggior parte delle persone in questo momento di crisi abbiano questa come prospettiva. Si fa capire, si fa intendere che potrebbe svilupparsi un welfare alternativo con i soldi della programmazione 2014-2020. Cioè, chiude un po' il cerchio del discorso, dice i soldi invece di darli ai soliti, alle solite cooperative che, o piuttosto ai soliti gruppi che li spendono in fantomatici progetti di rigenerazione urbana, dateli a chi sui territori c'è e che sa fare un'attività che rigenera i territori. Cioè, questo può essere ampiamente criticabile, però secondo me un passo avanti è stato fatto, cioè è stato quello di andare oltre la legge ordine richiesta dai centri sociali. Cioè, sì, su questo non ci sono dubbi, sulle, diciamo, prospettive, sulle ipotesi di lavoro, insomma, possiamo dirne tante e fare tante lamentele, però al momento, e dovrebbe venire anche d'altrove, insomma, la necessità di dire oltre un certo limite non si può andare, prendere cognizione dei problemi. E, loro quindi dicono esattamente: fare di San Lorenzo nel suo complesso un laboratorio culturale permanente e aperto, sostenendo l'autogestione e la produzione artistica indipendente, dalla musica dal vivo al teatro al cinema, l'autoformazione, le libere università, i festival, i seminari e lo sport popolare, antisessista e antirazzista, aprire le biblioteche e le aule della Sapienza e della Vetreria Sciarra, che poi è un pezzo d'università, è qui dentro San Lorenzo di... Il riferimento è all'università, c'è la facoltà di psicologia, fino a notte fonda, per far sì che la frequentazione notturna non sia solo quella animata dal mero sfruttamento commerciale della socialità, ma che anzi proponga opportunità diverse. Per salvare San Lorenzo non ci vogliono legge e ordine, ci vogliono intelligenza, generosità e risorse. Le prime due in molti casi già ci sono a San Lorenzo. Le risorse mancano perché le amministrazioni degli ultimi anni non le hanno sapute trovare e le poche presenti le hanno dirottate verso amici e clientele. A breve verranno stanziati i fondi europei 2014-2020, Roma avrà un suo fondo specifico, molte risorse potrebbero essere utilizzate per invertire la rotta. Solo le lotte potranno far sì che questa inversione sia possibile. Cioè, non c'è niente di male, decisamente non c'è niente di male. Forse c'è una telefonata. Sì, la prendi. La prendo io. Provvedo a vedere se c'è qualche cosa di musicale da mettere in funzione. Vediamo chi ci ha chiamato. No, non ci hanno chiamato. No, ci hanno chiamato, ma questo telefono fa delle bizze, per cui la prossima allora, la prendi tu. Provate a richiamare. Noi... Sì, è per la diretta, lo 06 49 17 50. Ma comunque magari... rimane il fatto... Era la consueta signorina della CEA. Strano, perché non rispondeva proprio. Comunque rimane il fatto che questa è un po' la proposta. A me l'impressione che ho io, che ne traggo, anche perché la premessa invece è la catastrofe di San Lorenzo, cioè la catastrofe di un quartiere trasformato dallo scontro, dall'astio fra i vari gruppi, non colga, come dire, un po' lo spirito che c'è sotto, cioè che cosa c'è al di là dell'impressione fugace di un generico degrado. Ho l'impressione che i problemi siano un po' più complicati, che non basteranno soltanto questi. Credo anche in relazione un po' al ragionamento, noi non l'abbiamo fatta questa domanda al compagno di Garbatella che ci ha parlato della biblioteca popolare. Però in generale ci siamo dimenticati di fargliela, perché comunque è un terreno interessante nelle diverse realtà come si vivono queste situazioni, no? Di vera e propria crisi sociale che si innesta sulla crisi economica, crisi sociale di appartenenze, di rapporti, di relazioni. Però ci sembra che non sia proprio convincente complessivamente, o comunque non all'altezza. Però speriamo che questo sia un ulteriore contributo utile a aprire un dibattito serio sul destino di questo quartiere, di chi lo vive, di chi lo ha vissuto, di quello che ha rappresentato. Per adesso... Anche perché sappiamo che poi i tempi, diciamo, dei media sono molto rapidi, e le notizie, le emergenze poi vengono inglobate e digerite in pochi giorni. Probabile, è possibile che magari di San Lorenzo adesso non si riparli più sui giornali per diverse settimane, diversi mesi, fino a quando ci saranno meno sirene in giro e quindi ricomincerà un po' tutta la buriana. Nel frattempo però sarebbe bene per noi continuare a parlare. Sì, perché un altro rischio che abbiamo registrato, ve lo segnaliamo così, è quello che anche molte persone animate da ottimi propositi dentro il quartiere, comitati di cittadini che nascono come comitati di strada, né più né meno, rispetto ai problemi che affrontano quotidianamente nel loro vivere, come rientrano a casa, dove portare a giocare i bambini, i famosi androni abbiano poi la tendenza molto, diciamo, a un comunitarismo localista che poi diventa ancora più localista. Cioè il problema è la mia strada, il mio parcheggio, il mio androne, la mia, quindi il mio percorso da casa al lavoro, e che poi si inneschi in un processo di continua ridefinizione al ribasso delle richieste. E in questo senso, in questo documento invece c'è un tentativo di rilanciarle su un piano più generale, ma che le energie attivabili intorno a questo abbiano bisogno di, come dire, anche una presa di coscienza di fenomeni che vanno un po' al di là delle questioni solo locali. Ci diranno che stiamo facendo il sociologismo, questo lo sapete. Però le questioni sono grosse. Beh sì, le questioni sono grosse, perché un magistrato, noi non amiamo citare i magistrati, però un magistrato ha dichiarato ultimamente che a Roma si stava meglio quando c'era la banda della Magliana. Lui probabilmente, non so a che cosa faceva riferimento, probabilmente era una classica frase d'effetto per dire che la camorra non comprava gli alberghi in centro, Però secondo me a quel tempo lui una passeggiata, quando c'era la banda Magliana a Cinecittà, non si è mai fatta. Ma manco qua però. Perché... Le file dei morti per l'eroina non se le ricorda, insomma, vabbè. Però lo dice. Il pulitino, quindi... di Tor Vergata, che ha aperto 15 anni dopo perché c'hanno ogni mattone... è andato a finire le tasche di chi sappiamo. Stavamo meglio quando c'era la banda della Magliana, la città era più tranquilla in fondo, tutto sommato morivano soltanto quelli che dovevano morire, che si facevano le pere sulle panchine. Sì, qualche signora veniva scippata, qualche stereo veniva rubato, ma tutto sommato oggi la situazione è più grave. Mo sul più grave e il meno grave rispetto all'emergenza ordine pubblico, insomma, dipende, diciamo, la memoria è veramente breve, è corta. Comunque i dati sugli omicidi ci dicono che 20 anni fa la situazione era molto peggiore. Poi magari erano tutti omicidi così, di ubriachi, boh. Non si sa. Però c'è questo allarme sicurezza rilanciato, ci sono queste grandi operazioni di polizia, questi grandi sequestri, questa... diciamo sull'onda, diciamo, delle continue denunce anche di personaggi così autorevoli, tipo com'è che si chiama quello, Roberto Saviano? Insomma, un autorevole firma della Repubblica apre e chiude campagne di stampa, quando allo schioccare le dita apre e chiude campagne di stampa, con questa economia criminale pervasiva che controlla tutto e tutti, che è un problema serio, un problema serissimo, che però nasconde poi la difficile definizione di cos'è criminale, che non è cos'è criminale, perché poi quando sollevi lo strato, diciamo, della bassa manovalanza, scopri che ti si aprono mondi. Provo a rispondere io. Squilla il telefono e rispondi tu, però magari non c'entra niente con la diretta, per cui voglio dire, no, è un trillino. Ci fanno i trillini. Ci trillano come a dai pure te. No, non è possibile. No, no.